Hola, hola, hola, c'è nessuno? Sono su 10. E chi è? Hola, hola. E chi è? Hola, hola. E chi è? Ehi, buona notte. Ehi, buonasera signor Gian Maria. E allora, come siamo? Come siamo? Non ti puoi immaginare, però. Per essere peggio, meglio così, dai. Infatti, faccio il peggio. E meglio così. Purtroppo. Siamo così, non potremmo fare nulla. Come sei su 10? Che dai, non si presentava nessuno, a macchina che qualcuno entra. Oh, Allora è deserto il 23, infatti ho passato là, ho dato dei compiti importanti, ma non c'era nessuno. Ma tutti a passeggio, sai? Sì, a passeggio. Qualcuno arrivi, faccio di importante, entra, adesso e si avvia. Attimo, entra. E adesso stavo spazzolando. Adesso se c'era qualcosa. C'è un po' di propagazione c'è in giro. Non poco, no, parecchia propagazione. C'è già anche stasera più presto, c'era su 23, c'erano due, ma da fuori però, non si comprendeva di dove erano. Infatti, fate così, ogni tanto entra qualcuno. Sì, la settimana scorsa ho sempre tutti quanti. E cosa? Boh, oggi non si vede nessuno. Non sapete la domenica deserto. Anche già che ieri sera. Però non c'era nessuno ieri sera. Spazzolando su 12 c'era Tino. Ma chiuso subito Tino, va. Oh. Oh, io no. Ieri sera non sono potuto entrare perché stavo facendo cose e ho finito tardi. Anche se no, pure a posto non funzionava nulla. E su 12 c'era cosa, quello di Forza Torres e Franco di Sorso, c'era il FM. Fino a che la cacquolette più su 12. Sì, già li ho sentiti, sì, anche poco fa li ho sentiti. Sentite anche poco fa. Sì, se ne vado nell'FM, si comprende più bene. Evidentemente mi piacciono l'FM. Loro mi sembra che stanno parlando sempre in FM. A chi piace e a chi non piace in FM. Infatti, però in FM c'è più pulita la radio. E cosa vuoi fare? Però devi anche regolarti lo scotch, se no lo senti lo stesso, ma in ricezione il rumore, capito? Sì, il rumore è più forte di questa di qua. È molto più forte. Purtroppo è così. Bah. e anche gli altri sono cominciato a disaltare, perlomeno. Ieri sera mi ho sentito a Marco con Gianni, erano quasi 10, però non sono potuto entrare, ho ascoltato ogni tanto perché c'era gente, non sono potuto entrare, sono entrato anche a salutare. E cosa vuoi fare? Non c'è più galattone, non c'è più voglia. Ogni tanto una pavidata. Ogni tanto. No, io ieri sera stavo mettendo a posto del coso e mi sta portando lo tempo. Ah, già finito da giubura, già finito. E quindi ho non ho potuto entrare per niente. Prec. Avanti. Buonasera a todos. Doppio room. Ciao Gio Maria, ben rientrato, dai. Ti faccio le mie condoglianze, ho saputo della tua signora. Grazie, grazie, scambiare. Grazie. Purtroppo è andata a me, toccata a me questa volta, va. Così che già passa piano piano già. Lo so. Sono cose dolorose, però bisogna andare avanti, Gio Maria, da dove va? Purtroppo. Purtroppo non si può fare niente, ormai gli dà ragione. È successo e basta, ma dobbiamo poi riuscire a superare il tutto piano piano, dai, ci vuole il tempo. Ecco. Infatti, ma tu cerca di distrarti, dai, di entrare, di parlare con gli amici, magari distraendoti ci pensi di meno. Sì, non è facile già. Non è facile, guarda, ma forse passerà col tempo, dai. Tempo ci vuole, però riusciamo a tirare avanti alla bella miglia, dai. Cappa, cappa, dai. Va bene, avanti, Tore. Sì, buonasera, signor Gianni. Dopo che il già si porta ora, rimani. Così è. Prendi il sole. Siamo entrati ieri sera, c'era Marco, Conor, io, c'era Antonello Dio, non Antonello Dio, scusa, Angelino di Alghero, eccetera. Angelino adesso si deve rimettere bene tutta la stazione a posto perché la sta ripiazzando, cioè l'antenna ce l'aveva, ma la stazione ce l'aveva smontata, adesso si deve rimettere tutto a posto, ma già arriva, arriva a Santiago 5 qua, ma ha detto che si metterà un lineare, ieri non c'era spezzone, non poteva manco attaccare. Io ho sentito l'altro giorno, lo sentivo bene io anche l'altro giorno, quindi non ho problema, già si sente bene, e la buia, catta. Io ieri sera non sono entrato perché stavo facendo cose e ho finito tardi, se no ero entrato, ci avrei venuto un ghiccio. Io vabbè, se c'avevi cosa da fare, detto che ti dice niente. Però vabbè, l'interessante è che entriamo almeno tutte le sere, così almeno ci ritroviamo, perché se no questa frequenza se ne va in quel paese. Abbiamo speso tanti soldi, Gio Maria già lo sa quanto abbiamo speso, e quindi è un peccato lasciarla andare così. Non si giuro a spendere i soldi, quindi a voglia. Ebbene, ne potevo pure Gacomo, ne potevo pure. Ero Gio Maria. Cosa vuoi farci? Purtroppo ogni cosa ogni tanto sparisce. Però, certo, come dice Gianni, bisogna continuare, perché se non entra nessuno, allora è il piccolo scopo. Intanto bisogna, ogni tanto bisogna cercare di entrare e chiacchierare, dai, almeno la mettiamo avanti di nuovo. Ma mi sembra che sono in poche quelli che ci sono rimasti, ecco. Magari ascoltano ma non parlano, come io per esempio, io non è che ne abbia mai tanta voglia, però ogni tanto entro ugualmente, per cui fa sempre piacere, dai. Se la lasciamo, siamo male anche noi, dai, perché tutte le sue spese abbiamo fatto fino a recuperarle, però non non è facile a recuperare così è già. Guarda, già l'avevamo recuperata, se ti ricordi Giovanni, è stata una decina d'anni ferma la frequenza. Poi ce l'avevamo trovati io, Natalino, Claudio e cose, abbiamo detto io chiamiamo gli altri, spolveriamo gli apparecchi e rientriamo. E così abbiamo fatto. L'unico che restavate la domenica eravate tu e Mario Mau. Poi di gente c'era solo Quaremo e tutta la settimana. E me lo ricordo bene, poi abbiamo ripristinato tutto, la tratta gente, abbiamo chiamato alcuni CB, sono rientrati e la cosa stava andando alla grande, ma non poco, non ce n'era un bel di gente. Già me lo ricordo, se era un CB prima, dai. Sta cambiando, dai, sta cambiando la gente, cioè anche il tempo, per cui. Anche io mi sono meravigliato, ormai hanno ammazzolato un po' tutti e la maggior parte. Prima era più bello perché tu qualsiasi canale che tu andavi e trovavi sempre qualcuno, mentre adesso invece giri tutti i canali no, e non c'è mai nessuno. Però ogni tanto la sera a quest'ora già qualche chiacchieraccia si può fare, dai. Ok, dai, io chiedo che sta venendo gente, stasera a quest'ora vengono i miei figli, per cui devo attendere con loro, capito già, per cui già mi faccio sentire da avanti un po' più spesso, dai. Grazie la chiacchierata, anche se breve, fa sempre piacere, buon proseguimento e ciao anche a Tore, riprendi già. Ehi Atto, ma Gian Maria, va bene, vengono a farti compagnia, già è bello, là. Ci sentiamo, grazie per il consiglio. Comunque l'altro giorno è stato anche Giulio, stavamo parlando anche con Giulio, quindi qualcuno sta rientrando, dai. Fatti sentire più spesso, avanti Tore. Infatti è così. Purtroppo è andare. Ci risentiamo Gian Maria alle prossime, ok. A risentirci. Stammi bene, ciao Gian Maria. Grazie, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao, ciao Gian Maria. Avanti Tore. Eia. E fatto che lo Giambelli è un rubinetto, quello Giambelli arriva la sera, già. Mi si è passato un tempo così, e ha giovinito che hai quasi 8 e mezzo, 9 e mezzo, 4, ha giovinito, di finire. Cosa stavi cambiando, rubinetto? Un rubinetto che si è messo a perdere, e quindi l'ho comprato nuovo, gliel'ho cambiato, un'oretta. Anche che un'oretta l'ho buttato. Ma ci vuoi due cavani in un lavandino, ma ci vuoi due cavani. Che lavandino? Addirittura? Allora, non riuscivo a vittare il dado che c'era sotto e che non fa rivivo. Allora ho preso e tolto il lavandino, l'ho avvittato ho avvittato i dadi dei bolloncini delle cose del lavandino, mi ha fatto dei dubbi e tutto quanto, e mi si è fatto di nuovo manco un quarto. No, da me si può accedere da sotto, si può andare a rubinetti, sì, non è facile, perché ti devi inchinare sotto lavandino e non è facile, è un lavoro che se c'è dolore, roba genere, lo puoi fare. Ah, ecco, il dado che ci andava bene con una 12 a tubo. Invece ne hanno cambiato, cazzo, mi è toccato di fare la giavigliusa e non andava bene, ecco cos'è. Mi è toccato metterci un altro dado simile e ho abitato con quello e ho stretto con quello lì, l'ho stretto. Ma perdeva solo quando aprivi il rubinetto oppure sempre? Perdeva sempre, quindi l'ho comprato nuovo e gliel'ho messo. Preciso identico e gliel'ho messo. Un bel è pagato, perché anche io devo cambiare il miscelatore della vela. Quello l'ho pagato 43 euro. Spiccioletti. Hai messo quello buono allora, dai. Quello diciamo che è migliore, dai. Io ho messo quello buono, Se no non andava bene. Aspetta, io ci metto una roba buona che duri. Tu se vedavi a un vent'anni, vedavi io. Non si trovavano più i pezzi. Il mio c'ha 30 anni e sta perdendo un po' dalla base, però solo qua dopo il rubinetto. Quando lo chiudi non esci di acqua. No, no, questo perdeva in tutti i sensi. Lo chiudevo e perdeva una parte, girava una parte e perdeva dall'altra. Ha detto, oh, mi sono stufato, è andato e l'ha comparato. È quasi simile. È quasi preciso. E anche io bisogna che me lo faccia cambiare, perché io non ce la faccio a chinarmi sotto. Bisogna che me lo faccia fare dall'idraulico, lo chiamo e lo faccio fare, perché è pericoloso, quello di su gli si è scoppiato, cazzo, ed è allagato tutta la casa, sono salito io, mi ha chiamato, vieni, vieni, corri, non sapevo cosa era successo, sono salito, cazzo, gli ho chiuso il rubinetto d'arresto subito, tutta la casa allagata, mamma mia, e infatti me ne farà da tutta canta l'intonaco, no, che non l'intonaco, ma la pittura si è sfogliata tutta, come ha preso umidità. Ha preso umidità, è brutto. Le farà tutto, le farà. No, io ho tolto il lavandino e i palloncini da sotto che mantengono il lavello. Ne ho giocato io e ne è uscito subito, ho mollato il tubo e ne è uscito. Ah, ne ho avvittato da fuori, ho fatto più lettera così. E poi ho avvittato i bolloni del lavello, stretto, ho avvittato i tubi e via. Guarnizioni nuove, tutto quanto, e così è a posto. E faccio molto bocca a piazzarlo. Io bisogna che sono lavori che me devo fare, perché anche il mio perde un po' dalla base, quando tu lo apri esce un po' d'acqua, se lo giri da una parte no, se lo giri dall'altra perde. Sì, no, questo non c'aveva più i pezzi, sennò aveva chiamato il blocco di dentro, l'avrei cambiato. Ma non lo venderò più. Ah, detto, vabbè, non lo vendo più, a me prendo questo rubinetto. Ha sbagliato un rubinetto, se l'ha tutto diventa la cattura. Quindi ha giocato prima a cavannero il lavello. E così ho fatto. E l'ho piazzato con il lavello smontato. Ha giocato prima. E beh, se ti veniva male da sotto a farlo, è normale che dovuto togliere il lavello. Il lavoro si è allungato, ma poteva essere una gazzata di mezz'ora e si è allungato. E infatti ho fatto prima, armato così, è nuovo e non vi penso più. Tanto che dovrà avere 25 anni, vedo il suo rubinetto. E io ce l'ho buoni 30 anni, 30 anni buoni ce l'ho. Sì, vabbè, poi le cose ci roviniamo noi, ci roviniamo anche le cose, no? Adesso l'altro giorno sono andato a mettere l'asciugapiatti a prenderlo, cazzo, e invece era fare di una piastrella, allora l'ho tolta per non rompersi, lo devo riattaccare, ma non so se metterli collante o cosa metterli per attaccare. Il collante ci vuole, ma ci vuole altra collante è fatto bene, e poi li metti da cosa ai fianchi, la pasta ai fianchi, la pasta il risante. Bisogna vedere adesso che non sai cosa c'era dietro, praticamente non l'avevano puntellato come si fanno, che si danno le martellate per entrare dentro. Era liscio, per forza ne vara. E ti grido. Hanno fatto così, attaccato così l'hanno attaccato. Allora è molto cosa adatto per le piastrelle, l'hanno buttato il giumento bianco. E cosa è successo nel bagno? Nel bagno c'aveva una porta centrale, no? Che divideva la parte del water del doppio servizio dal mobiletto dove c'è il lavandino. E io per avere più luce praticamente gli ho detto di togliermi con la porta e di aprire. l'hanno aperto e hanno lasciato le colonne, no, che c'erano montate. Cazzo, smontando le colori ne so fare di tutte le mattonelle. Meno male che ce le avevo di riserva, se no tutte le piastrelle. Diceva che cazzo le attaccate queste piastrelle, se le attaccate a sputo, non le hanno manco puntellate prima di mettere. No, devi dare un po' di la colla e poi lo devi strisciare e poi le devi appiccicare piano piano, metterle a misura. E le devi appiccicare, e poi l'indomani ci devi rimettere quella specie di coso, il reggiante che va bianco o grigio o rosa, come va. Sì, ma per due mattone non è che posso guidare un collante, lo vendono a sacchi, mi pare. No, che già c'è da chilo. Già c'è le buste da chilo dentro. Al coso. Già ci sono. Voglio comprare a Dio. Un chilo, no, no, una busta di collante da un chilo. Ma è tipo bricchi sono le cose, perché io prima lo compravo così, sia il gesso, sia il coso, come si chiama, la malta, compravo. No, c'è da chilo, c'è, guarda negli scaffali, leggi che c'è da chilo. Non mi sembra che sia, aspetta, uno, due, dal terzo, dal terzo scaffale, a sinistra. Ho capito, e vabbè ci vado, faccio il primo, quando lo tiro mi compro tutto quanto, e mi compro anche lo stucco per il muro, e mi faccio tutti quei pezzi che ne scesa la pittura, perché... Cazzo Mario, una casa vicina, cazzo, da grande sei in umidità, quello lì mi ha detto che me lo faceva, di lasciarlo asciugare bene, che poi me lo faceva, lui è un imprenditore edile, quindi problemi non ne ha. Non c'è mai venuto, ma ne l'ho detto due o tre volte. Sì, sì, sì, va bene, tu venuto, ci sei soltanto lui. Andiamo, andiamo. Se ne ha fottito, dai, o se ne ha dimenticato, se ne ha fottito. E infatti è così. No, basta che prendi lo stucco per muro, poi c'è il collante da un chilo, ti dovrebbe bastare, 50 mattonelli già, 2, 3, 4 mattonelli, e poi il reggiante per mettere le fissure. Sì, per attaccare. No, il collante per attaccare, il reggiante per mettere quello nei segni che ci sono, che tipo in polvere, del colore che vuoi. E le fughe sta dicendo, io ci metto il gesso lì, ci metto il gesso nelle fughe. No, non ci vuole quello lì, il gesso non ci vuole, ci vuole coso, nelle fughe, carifughe si chiama, che vuole quello proprio per i mattoni, che lo vendono quello lì, lo stesso a sacchetti piccoli lo vendono. Cara gara, lo sai cos'è che mi devo comprare? Una scala di quelle che si allungano, di quelle in alluminio, perché quella che ho è in ferro, è di quelle che si allunga, che puoi usare come scala, puoi usarla dritta, la puoi usare girata, ma appeso a tre quintali anche in ferro. No, io ce l'ho la scala, l'ho presa anche per il condominio, l'ho presa. Per il condominio l'ho pagata a 87 euro, l'ho pagata. E cosa sulle 100 euro quella che serve a me, sarà da 6 metri, quella da 6-7 metri, perché io la uso anche per salire sulla gabbina dell'ascensore, capito? Questa si allunga lo stesso. Si fa coso, a forbice si allunga e poi si può aprire anche. Cava. Ma dottore, dai, ti saluto che devo fare roba. E già sono le 7:30, tanto fra poco devi prendere anche le pastigliette. Ti saluto e ci sentiamo domani, dai. Stavi bene e buona serata. Buona cena quando la fai. Ciao ciao. Ok, ciao già, stammi bene, alle prossime, ci risentiamo.